quella sarebbe la cosa ideale, no? Trovare la radio a posto, però molte volte quando vai a prenderle, magari che sono usate, non sai mai cosa gli hanno fatto, eccetera. Io in passato ne ho avuto tante di ottime radio, poi avevo dismesso tutto e solo da pochi mesi ho ripreso, mi sono preso questa radio così modesta, eccetera, e per adesso va bene così, perché se ti metti un buon cavo e l'antenna è posizionata bene, hai fatto tutto in maniera insomma ottima, dovresti riuscire anche con pochi watt di guadagnare di più con l'antenna, il cavo buono, quello penso sia fondamentale comunque, a parte la radio. L'antenna è fondamentale. Claudio, comunque prima di prenderla, tu fammi capire che tipo di radio vuoi tu. Io ho delle conoscenze dove ho comprato delle cose, tra l'altro, la Vasca di Roma, conosco il titolare, è una persona veramente onesta, fa dei noti ottimi prezzi, c'ha un sacco di usato, se ti interessa possiamo chiedere, tu mi dici il budget e che tipo di radio vuoi, dopo che chiediamo a lui, poi chiediamo informazioni anche a Marco Scorpion, che lui lo stesso ha tantissimi contatti, e vediamo di cosa. Non affrettate a comprare da privati, a meno che non siano persone che conosci benissimo, tipo quelle che ho nominato io, che dici vai a casa sua e te la garantisce che c'è una radio buona, eccetera, perché quei tipi di radio, se non sono controllate bene, ti possono dare dei problemi, perché sono nate delle radio vissute, eccetera, eccetera. A meno che non fai il discorso che ha detto Gianfranco, te ne vai con una radio moderna, tipo il 7003, che è una radio eccellente, se ti piace quel tipo di radio, quella c'ha tutto, c'ha un analizzatore di spettro, eccetera, eccetera, la trovi adesso a meno di 1000 euro, perché l'ho vista anche a 900 euro, e sono radio moderne, c'hai 2 anni di garanzia e te ne esci da tutti gli impicci. Ti vuole entrare. C'è qualcuno vuole entrare, avanti che vuole entrare, hanno sovramodulato per un attimino, avanti che vuole entrare, vabbè, vuol dire che non è a Puglia, vai Carlo. Ho sentito anch'io una portante abbastanza forte che non ha passato Claudio, però si è sentito qualcosa, sì, ho sentito tutti questi discorsi e insomma, Claudio, quando l'acquisti la radio, guarda bene e compra le cose nuove, soprattutto, perché se la vuoi tenere, ti piace, la compri nuova, solo così sei tranquillo che non ha niente, tutto va bene. Se no, se passate in altre mani, c'è sempre il rischio, insomma, che qualcosa non possa andare bene. Poi questo non è che vuol dire che non si possa trovare il rimedio, per carità. Comunque, bene mera, io tra 5 minuti devo uscire, quindi vi saluto e magari se esco in macchina, accendo in macchina, ci sentiamo più tardi casomai. Ciao Roberto, ciao Claudio, devo andare a prendere la figliuola. Ehi, a casa non c'è problema. Ok, vai Claudio. Sì, ci può essere, mi ha fatto piacere che ti ho potuto, Carlo, grazie dei controlli del PSO che ti sono fatti in un teatro, insomma, là, ci sentiamo nel prossimo video, che ti auguro buon tutto, una buona serata e ci sentiamo alle prossime, riprendi. Ciao, ciao, ciao Claudio, alle prossimine, avanti Roberto, ciao e buonasera. Eia, se capita, allora, come hai detto prima, passi 10 minuti e ti do quel numero di telefono. Normalmente chiamo dopo a Claudio, gli chiedo conferma, ma penso non ci siano problemi perché stavo aspettando le tue disponibilità per fare il tutto. Ok, ciao di nuovo Carlo, poi se ci sentiamo dopo in macchina va benissimo lo stesso. Di nuovo il mic a Muros. Sì, capito, ma la devo studiare bene, con l'acquistare, non so, non è che la prendo con già scatto la fuga questa radio, devo valutarla al meglio, perché ho anche intenzione di cambiare l'antenna, la sua. forte, sono solo che mi ascolti, ancora più forte, mi ascolti. Se attacco tutto qualcosina, che spingo un qualcosina, arrivo ancora più forte, ma non ce n'è bisogno, io voglio sostituire più che altro per eliminarle il corrente, capito, io, perché arriva forte già da adesso, non c'è bisogno di alzarla per montare il segnale, perché arrivare da lui la portante ce l'ho benissimo, c'è la portata, voglio dire, la portante. La portata c'è benissimo parlare con voi e attrezzarci, arrivare arrivo con i tiri anche, perché sono anche molto aperto per arrivare un tiri, però c'è questo QRM la notte che lo voglio illuminare, capito? Perché mi causa molto di, come si chiama, che quando piove, di tamponare, capito, voglio risolvere tutti questi problemi, li voglio, ci metterò un palo più alto e però ci metto la, come si chiama, o la mando da 5 o una grattioli, poi vedrò di acquistare questa benedetta radio che mi stai dicendo, riprendi. Sì, sì, vabbè, la cosa fondamentale in ogni caso, indipendentemente dall'apparato, è sempre l'antenna, ricordati, non c'è bisogno di dirlo io, già lo saprai. L'antenna è fondamentale, puoi avere la più bella radio del mondo, ma se non hai antenna hai finito i giochi. Ok, vediamo se vuole entrare qualcuno nel canale 10, nel frattempo avanti che vuole entrare. Volevo sentire a Mirko, perché ieri sera ha sistemato delle cose, stavo uscendo con il 757, bassa potenza, però all'inizio era una porcheria di modulazione, non si capiva niente, tutto distorto, poi ha fatto degli accorgimenti come gli ho detto di fare e andava benissimo, infatti ho detto sigilla tutto, mettici un po' di mastice e blocca tutto così, è andata alla grande. Serie, diciamo, ha avuto dei problemini sul display che li hanno successivamente eliminati quando hanno messo il display a colori eccetera, ed è una grande radio 950, è più recente da 940, anche se c'è da dire 940 è un pochettino meglio come livello di radio, di emissione, c'ha qualcosina, qualche piluzzino, infatti radioamatori per certi tipi di cose dicono che è meglio il 950, 940, però c'è da dire che è una radio molto vecchia, 950 ci avrà 10 anni di differenza, per cui 10 anni è come che c'è una macchina di oggi e ne prende una di 10 anni fa, il rapporto è quello. A te non piacciono le lucette, i display, gli indicatori a LED, però diciamo neanche a me ne sono innamorato, però per certi versi sono carini, quello del 950 è bello, è molto carino. Ti devo dire quello del 9 del CTS 2000 sinceramente non mi piace, perché poi c'è questo colore giallognolo, i colori di cosa, diciamo preferisco come bellezza ce ne sono di meglio, però quello del 756 ti posso dire del 950 sono belli, come vabbè 756 c'ha l'indicatore a lancetta ad ago, però del 950 c'ha quei led in orizzontali al contrario del 2000 che c'è una specie di archetto di mezzaluna che non mi piace, preferisco quelli orizzontali, sono tipo una piastra di registrazione versione sono più carini, dai, mi piace di più. Comunque, valuta bene il discorso. 940, grandissima radio, bellissima, a me piace tanto, tra l'altro me la sono comprata, era un desiderio mio, però bisogna stare ancora più attenti perché è una radio ancora più vecchia del 950 e ancora di più del 756. Sì, Roberto, assolutamente. Un attimo qua. Già lo sai, con te non esistono i problemi. Se vuoi dire il prezzo, dimmi, così ti dico se l'hai pagata bene o poco. Ho preso una Fiam, quelle rinforzate, ho 80 euro, ma non è per quello che mi interessa, è il fatto del prezzo, 10-20 euro in più o in meno è uguale per me, non cambia proprio niente. Sì, diciamo un prezzo abbastanza ragionevole, non c'è problema. Ok, meglio così, dai, che hai risolto. Comunque, qualunque cosa inerente al mio lavoro, già lo sai, Giulio. Non c'è problema. Avanti, Buros. Sì, questo è l'intanto. Saluto a Giulio. Ciao Giulio, buonasera. Ho sentito anche tu, anche a te. Sì, mi sta arrivando Sottovalose, Radio 5 qui a Buros. Questo è il tuo rapporto, Giulio, qui a Buros. Sì, mi arrivi molto bene. Quindi a te, buonasera. Ok, ciao Claudio, anche tu mi chiami, stai arrivando bene, Santiago 8, è una radio buona, sì, è quello appunto, no, Roberto, perché è impossibilitato, perché abbati ieri mia figlia Valeria, che lei fa un giorno sì, un giorno sì, e un giorno no, vanno a Osero al lavoro, no? Mentre invece cosa è successo? Che ieri, che era martedì, ha fatto lunedì a Osero, ieri invece era un'area, non so come si chiama, insomma vicino a Nuoro, un paese lì vicino a Nuoro, sempre per lavoro, e dunque io sono rimasto bloccato qua, non potevo muovermi proprio perché mi mancava la batteria, è tutto lì. Allora ho fatto la telefonata a mio fratello, ha fatto bene, qual è il problema? Ha fatto bene, preparami il caffè che sto arrivando subito, e me l'ha portato la batteria, è andata così, come? No problema, cosa fa, di cosa si occupa tua figlia giù? Capite, dottoressa, dottore agronomo, dunque lavora per tutta la Sardegna, comuni compresi, regione, tutto, dappertutto. Poi tra l'altro ha anche un impiego nel comune di Osero, allora lì ci va un giorno sì, un giorno no, perché tutto il resto della settimana deve fare la professionista per conto suo, no? Mentre lì a Osero ha un contratto per un certo periodo e dunque lavora solo la mattina, un giorno sì, un giorno no. Bene, bene, sono contento, dai, che se ci stai male, era ora, dai, diciamo, questi ragazzi molte volte ci laureano, non sanno cosa fare, sono contento per lei e soprattutto per il padre che è soddisfatto della figlia. Di nuovo a te giù. Sì, però mia figlia sta lavorando da oltre 20 anni, ti puoi immaginare, da oltre 20 anni sta facendo il professionista, non è, anche perché ha un suo gruppo così, no? Perché nel suo lavoro c'è bisogno anche di altri tecnici, oltre che lei, ci vogliono anche altri tecnici, addirittura ci vuole anche il geometra, ti puoi immaginare. 20 anni che sta lavorando in Fruppio, ma adesso ha avuto anche quest'altra opportunità che l'hanno chiamata, l'hanno voluta per forza inserire in questo contesto di Usico e poi si vedrà se serve il contratto continuo o se lei può rimanerci, perché è impegnatissima col lavoro suo personale, capito? O Roberto. Vai Claudio. Sì, ci piace Roberto, approfitto per salutare, perché devo andare a fare un lavoretto con l'apparato che stavo usando poco fa, da solo per te, a tu, mi ha fatto piacere delle due chiacchiere, da venire del corseo, saluto anche gli eventuali amici che ci sono in ascolto, io faccio un po' di più perché devo fare roba, non fare d'acqua, ci sentiamo alle prossime, riprendo in giugno. Ok, ciao Claudio, ci sentiamo, ciao, salutoni. Grazie, salutami anche a Gianni, tuo padre. Sì, è così, Roberto, quindi. Sì, no, ero convinto che non stesse lavorando così, pensavo 4-5 anni, non di più, perché mi avevi parlato tu che dovevi liberare il laboratorio per fare lo studio su, io pensavo che stesse iniziando a lavorare, invece sono contento anche ancora di più, dai, meglio ancora. No, mia figlia ha subito lavorato, appena laureata, che si è laureata che aveva, mi sembra, 24-25 anni, una cosa del genere, e da quel momento ha cominciato a lavorare, inizialmente ha lavorato per una società di tecnici, infatti faceva anche i progetti per le linee elettriche eccetera eccetera, anche nel corso, come si dice, quella cosa che c'è lì a San Pietro della regione, non mi ricordo cosa si chiama, quella specie di fabbricato che hanno fatto strano tutto quanto, anche lì c'è lo suo zampino, ha sviluppato lì i progetti eccetera, e poi ha lavorato con la forestale per roba di 4 anni, poi ha lavorato anche per il comune di Tempio, e lì è impegnatissima da oltre 20 anni, anche 23 anni più o meno. Ma quanto hai lasciato la figlia, se lo vuoi dire? 47 ne ha. Lo sai che l'ho capito fosse molto più giovane, non l'ho conosciuta, no, almeno non credo di conoscerla, ma pensavo che avesse 10 anni di meno, figurati. No, è 47 anni, se che ti puoi immaginare, fai il conto, se a 47 anni ha iniziato, si è laureata che aveva 24-25 anni, se che facendo i conti sono 22-23 anni che sta facendo la professionista, oltretutto, per cui ha lavorato, ripeto, 4 anni alla forestale di Tempio, poi ha lavorato o 2 anni mi sembra o giù di lì al comune di Tempio, sempre lì, e poi oltre al fatto che sta facendo sempre lavori per Tempio, per Signori, per Orsino, per Sorso, per Olbia, Oristano, Nuoro, dappertutto in tutti i paesi, anche per la regione di Cagliari. Allora c'è domanda, Claudio Sparviero, se senti tu? Dice? No, io non lo so perché ero un po' di giorni che non accendevo la radio, o meglio l'accendevo ma non tenevo il volume basso, completamente basso, e non mi avvicinavo nemmeno. L'accendo perché l'accendo la mattina per avermi il video, l'accendo, la lascio tutto il giorno accesa. Poi quando salgo la notte per andare a letto la spengo, tutto lì, non l'ho sentito per niente. Ho ripreso oggi. Sono entrato un momento fa, appunto per avermi sentito, infatti avevo il potenziometro abbastanza alto, non so se te ne sei accorto dal segnale, dunque il carrier era molto alto, l'ho dovuto abbassare. Ma questo è il 44? Sì, il 44, sì. Sì. No, infatti me ne sono accorto, infatti quando è acceso eri più alto del solito, il segnale è sempre ultimo, ma prima era ancora più forte. No Claudio, stavo dicendo perché mi ha chiesto per mettersi d'accordo Carlo, dovremmo mettersi d'accordo per l'antenna, però io prima di dare il numero di telefono volevo avere l'autorizzazione da lui, adesso non lo voglio disturbare, se era in frequenza magari si ascoltava, ti dicevo di sì, ma penso non ci siano problemi perché me l'ha detto lui l'altro giorno, mi devo sentire con Carlo per vedere per l'antenna. Vabbè, quello sì, ma intanto il numero di telefono di Claudio lo sanno tutti, lo conoscono tutti, non è che non lo conoscono, per cui vabbè, è anche corretto comunque, come hai detto tu, prima di dare il numero di telefono bisogna chiedere al legittimo proprietario, certo che sì. Guarda, dai un'occhiata di nuovo allo smittere, Robert. dimmi com'è adesso il segnale in questo momento, vai. Ecco, come hai visto, eh? Sì, 9.25 ci è arrivato. Che avanti. Sei tutto a fischi già. Già, rimettiti a posto, che sì, tutto quanto blizzardato con quella radio. Hai guardato, non ho sentito la risposta che mi ha dato, o Robè? 9.25. Ok, a voglia, va bene, va bene, va benissimo. No, perché poco ho sentito che Carlo arriva più forte di te lì da Claudio. Mi sembra strano, perché qui da me arrivi più forte tu, non di molto, ma almeno di 2 punti se arrivi più forte tu di Carlo. E probabilmente lui c'ha un canale, oggi è quasi 9.60, era 9.55, qualcuno picchi arriva a 9.60, infatti come oggi non l'ho mai ricevuto così forte. Lui dice che nel pulito non si sta aiutando con niente, neanche Pompugno arriva così forte. Antonello, vabbè, probabilmente come distanza siamo uguali, però lui è molto molto in alto, Carlo è completamente aperto, aspetta quando mette l'antenna verticale, lui c'ha un dipolo, mi è montato in verticale, aspetta quando piazza l'antenna con la di Claudio, quello schicchia già forte a tutti, diventa il numero uno, il più forte di tutti, è già fortissimo così. La, e mica, già, non stai uscendo bene, il segnale è buono, 9.20, però la radio è tutta impazzata. Mette a posto il microfono già. Sì, Robè, ma è così. In effetti è così, non ci sono dubbi, aspetta che abbasso ancora. Avevo riabbassato, però ecco così. 8 watt così già va bene. Stavo dicendo, evidentemente c'è qualche canalizzazione lì che è più libera, che lui riesce ad arrivare dalle sue parti più forte un po' di te. Ma comunque non fa niente, va bene, va benissimo sempre, i segnali sono fortissimi, per cui va più che bene. Avanti Gianni, riprova, dai, riprendi Robè, dai, Gianni sta lavorando mettendo a posto. Che io questi vizi che c'hanno, e Gianni è uno di questi, di toccare le radio. Una volta che ha raggiunto così Claudio, così Antonello Pompone, stanno sempre maneggiando, tienine una bella, pulita, tranquilla, non la tocchi più. Poi se ti diverti ne metti un'altra, però una volta che hai raggiunto il giusto compromesso, ieri Antonello, gli ho detto Antone, la prima volta che ti sento benissimo di radio, forte, chiara, senza rumori ronzini, dico, detto, non toccano da lui, voglio un po' aprire la L5, lasciala così, un Saturnecco. Usciva una meraviglia, uno dei pochi che esce bene, perché Saturnecco sono tutti manomessi. Così Gianni, certi giorni esce benissimo, poi di Goefu, male. Non parliamo di Claudio D'Amuros, che ogni tanto fa esperimenti. Io ho detto, lasciati con la radio, usi quella, poi per dire ogni tanto alterni così, però non toccare niente. Mirko, dopo tante peripezie, ieri siamo riusciti a aggiustare la radio e stavo facendo come non mai. Per cui io dico, una volta che hai sistemato tutto, come fai tu lo stesso Giulio, non devo dire niente, esce sempre nello stesso modo, poi magari puoi cambiare la radio, però hai trovato il giusto compromesso, è inutile toccare. Adesso prima di dare il cambio il mic a coso a Gianni, dimmi a me invece il controllo di segnale, che te l'ho già dato, come ti arriva dalle tue parti Giulio? 9.15 modulato Roberto, 9.15 modulato tranquillamente, da portate qui siamo arrivati 9.12, 9.13, mentre invece il segnale di Carlo poc'anzi era 9.11, dunque leggermente più basso del tuo, infatti mi meraviglia quello, come mai da Amuros arriva più forte e qui invece mi arriva leggermente più basso di te. Comunque sono le stranezze della frequenza queste dell'RF o Robè, sicuramente è così, dai, comunque non ha importanza, punto più punto meno va sempre bene, non c'è problema. Vediamo se Gianni riprende, vai Gianni. Robè, era su molto di tosserie perché la radio non è tocca, ho problemi stazionari, è quello che sta facendo questo problema qua, non è né microfono né l'apparecchio né niente, ci sono problemi stazionari, non tocca, dai, ma già senza offesa, è soltanto un osservatore, io molte volte ho notato che cambi la radio, metti un microfono uno o l'altro, trovi il giusto compromesso, dico basta, tocca, poi naturalmente la radio è tua e fai quello che ti piace, non mi permetto a dire niente, però io dico una volta che hai trovato il compromesso, non tocca nulla, tutti ti dicono va benissimo, Clara Gianni esci benissimo, non toccare niente, poi magari ti cambi la radio, ti esci, proviamo un'altra radio, no, ma tanto non è che c'hai 200 radio per dire devi provare una al giorno, una volta che c'hai le radio, tieni quella, io ce l'ho tanti anni questa, non ho mai toccato niente, sta sempre, non per dire che sono più bravo di te, non c'entra niente. Non si comprende nulla. Ah, comunque già non ti capisco, si sente malissimo, poi mi ripeti tu, mi hai detto che sono stazionale, segnale 9:20 tieni presente, però la radio è tutta, non si capisce niente. Hai una melanzana e una patata in bocca, o Gianni. Guarda quando sei mi ascoltate lì. Peggio che mai, non è la tua radio. Va bene, se te la ascolto, non te la prendo, se sono la televisione. Perché non voglio dimenticare che il bocca non fa, non adesso sei anche a fissi, già se vuoi un consiglio blocca tutto, cioè che ti sfasci la radio, insomma da quando hai messo questa antenna Gianni ogni tanto hai qualche problema, ho capito, dai, comunque sono cose che se di media non è un problema, purtroppo è così, dai, vabbè. Sì, tenete presente già, lo ripeto per l'ennesima volta, io quando faccio delle osservazioni non lo faccio per motivi di invidia, di gelosia o di critica, io dico quello che ascolto, poi naturalmente fa ognuno quello che vuole, qualcuno le accetta e consigli, qualche d'un altro no, però non deve essere una cosa offensiva, prendila come un'osservazione. Aspetta, Claudio, devo dire roba. Aspetta, scusa già un attimo. Claudio, sì, sì. Io sono qua, io sì. Sono andato via, avevo fermo l'attore, stavo pulendo, l'ho messo in spesa, sono impegnato con loro, te l'ho detto. Approfitto questa settimana, il tempo è bello, dimmi. Buonasera a tutti comunque. Allora, ti stava cercando Carlo per l'antenna, per mettervi d'accordo o per prenderla. Siccome lui non ha il tuo numero di telefono, Antonello Pompugno dice che non ce l'ha più, l'ha perso. Domani mattina dovrebbe passare da me. Gli do il tuo numero, vuoi? Sì, però sai che non dovresti neanche chiedere, ad un altro me l'avevo detto di no, ma tu fai quello che devi fare. Hai in carta bianca con me, lo sai, no? Taglio, non devi chiamarmi perché io sono incasinato, presso, vieni a prendersela, perché io sto facendo dei lavori molto urgenti tutto il giorno, sono da stamattina quando sono andato via da te, ho staccato quei 10 minuti e poi sono tornato, capito? E hanno finito quel lavoro che dovevano fare, e poi sai, adesso domani devo fare l'altro, così sono a posto, dai. Ok, va bene, perché poi ha chiesto se qualcuno potrà dargli un aiuto, ha detto non lo so, mettetevi d'accordo voi, io sto lavorando, sono ben volentieri, se l'avrei dato una mano, poi gli ho detto Claudio, probabilmente gli ho detto sabato mattina viene da me a darmi una mano a montare la mia, poi vedi un po' tu Claudio, io dico, gli do il tuo numero e poi vi organizzate voi. No, non ce n'è di altre organizzazioni, sabato mattina io sono impegnato con te, dovevano venire anche sabato i muratori, ho detto devono venirci, quindi ho già detto quello che devo fare. Sabato mattina ti piazzo la 510, te l'assemblo, la montiamo e così quella è a posto, poi per il riposo ci mettiamo d'accordo un altro giorno, non so quando vuoi farlo, vediamo un po' di organizzarci. Va bene, senta Giulio, pertanto un saluto anche a lui, non so se mi stai ascoltando, buonasera. Sì, ciao Claudio, sì che ti sto ascoltando, un pochino più male di radio e sai forse con qualche batti in più. Però già è abbastanza comprensibile, chiaro e potente come al solito, non c'è problema, comunque va bene, dai. Va bene, capisco, non c'è bisogno che mi spieghi niente perché intanto so già tutto, non c'è problema, comunque va bene anche così, avanti ancora Claudio. Claudio, ha mollato. Gianni, ci sei ancora? Scusa, stavo, non capisco. Giulio mi ha letto la radio, io non ho toccato niente, infatti sì, sto andando qualche volta in più, ma la radio non deve cambiare, perché è cambiata la radio. Ha detto che non ha cambiato niente, Robert. Allora, rispetto a quella senza il giocattolino, un pochettino più amplificata, un pochettino più strozzata, però è sempre Radio 5, non è eccellente come senza il coso, però va bene, niente da dire. Non ho toccato niente, vediamo un po' qua se... Attenzione, siamo a posto. Avanti Giulio, il segnale com'è lì da te? Ma la metà dice? No, la metà io lo so che no, è quello che mi ha dato l'altro giorno. No, la Giulia non l'ho fatta la prova. 9:11 io Claudio, dunque tu dovresti arrivare 9:09 quando hai la radio perfetta. Adesso ce l'hai un pochino alterata, diciamo, però va benissimo, non fa intendere, ma non è la tua solita radio, ecco quello che intendevo dire. Comunque va ugualmente bene. Se ti serve fare così fai pure, perché non c'è problema. Figurati. Avanti Claudio. Questo era un predicatore a Clex, quindi non deve cambiare, questo c'era davvero a circolati l'ingresso, quindi no, non capisco perché stia facendo così. Vabbè, ok, dai, io vi saluto e ci sentiamo, che è arrivata anche mia figlia e quindi ce l'ho a fare anche adesso. Dai, loro il numero, direi di chiamarli, ma intanto sabato io già mi impegno con te, quindi non impegni con nessuno, poi l'antenna è già assemblata, li avrò già pronta da mettere gli stili e da regolarsi le stazionarie, e te le dico come deve fare con l'altro stilo, basta, non c'è da fare niente, già assemblata l'antenna, quindi ci vuole 5 minuti a montare quell'antenna, ma io non vado a piazzare antenne a casa di nessuno. Ok, ci sentiamo, buona serata a tutti, ciao. Scusa un attimo qua, eventualmente come si chiama, se lui, io non voglio farlo andare a casa tua perché è casa tua e non ci voglio entrare per lo mezzo, se per caso mi dice portarmela da me in officina, me la porti da me o vi date appuntamento, non lo so, e poi come abbiamo fatto altre volte con altre persone, se voi mi ritiro i soldi o vedete voi, dai. Sì, lo sai Robert, abbiamo sempre fatto le cose tra di noi, non c'è bisogno di lavorare, io tu hai carta bianca, io intanto mi metto d'accordo con lui, le dirò sicuramente che sabato mattina intanto venire a te gliela faremo andare lì, insomma, ci mettiamo d'accordo noi domani, dai Robert, non devo portare il radio a fare, ci sentiamo per telefono, ci mettiamo d'accordo noi, o fai un saldo tu un attimino veloce e si porta via, oppure però cosa posso fare, ok, perché ho tanti impegni e non le sto pensando né alle antenne né al resto, è qua un mese l'antenna perché veniva a prendersela e adesso c'è fretta, io ci avevo altro da fare Robert, non è che posso stare, ok, vi saluto a tutti, buona serata, alla prossima, ciao. Sì, ciao, ciao, buon tutto, buon proseguo, vai giù. Ok, ciao Claudio, ci sentiamo nel prossimo, dai. Ok. Va bene, è così sia, certamente che sì, ognuno di noi ha i propri impegni, per cui non è che si può sempre essere disponibile al 100%, anzi Claudio è anche abbastanza disponibile, anche troppo direi, nei nostri confronti, parlo nei confronti di tutti quanti gli appassionati CB, per cui niente da dire, lasciamolo fare che è cose molto importanti da fare a casa, e va bene così, vai Robert. Sì, ci mancherebbe, disponibilità niente da eccepire, e la stessa parte da parte mia e anche perso di te, quando meritano le persone non ci sono problemi. Ok, va bene, stavo dicendo, sai cosa dovrei sostituire? Nella C3, presente ce l'hai quel gommino tutto lungo che parte da davanti sulla capota, dalla parte all'altra, praticamente dove si attacca il portapacchi, no? Lì, quella sia la parte davanti si è rotto quello che è aggancia, e dunque quando cammino si solleva un po' dal vento, quello già lo vendono, sì? Sì, la guarnizione nel profilo delle grondine, ma è marcio il tuo o è solo staccato? Quel pezzo, no, non è marcio, no. in punta, nella punta di quella specie di guarnizione, come si chiama, non lo so, c'è un sistema che poi quando è basso praticamente viene agganciato alla lamiera, alla capota, diciamo, dai. E quel pezzo lì manca, proprio il pezzo che deve agganciare, sì, che cosa succede? Che quando cammini, se magari fai, soprattutto se corri un pochino, cosa che io non faccio quasi mai, anzi difficilmente faccio queste cose, si solleva, non vorrei che alla fine questa magari saltasse addirittura del tutto. Sì, ne facciamo una marea di quelle macchine, ma tantissime, è un difetto di quella macchina lì. Quello che voglio capire, il tuo c'ha il puntalino staccabile o il puntalino tutto intero? No, è tutto intero, bisogna aprire il bagagliaio, il portadone è dietro e si sfila lungo tutto quanto da quella parte lì. Allora, se tu passi in officina, una giornata che non piove, si pulisce bene tutto quanto, ci mettiamo un mattice nostro, gli metto un pezzo di scotch per tenerlo appoggiato, se c'è un garage, inizia la norma la macchina. Sì, ed è per quello anche che mi si è rovinata la batteria, mi si è considerata che era 2 anni che non camminavo quasi mai, per cui tu pensa che, tanto per darti un'idea, l'ultimo rifornimento di benzina che avevo fatto, l'avevo fatto in giugno, quando avevo appena finito la revisione, e che si trattava praticamente di 20 euro, perché avevo messo 10 euro io e 10 euro me l'aveva regalato quello della revisione, il Fiori, no, lì a Fredaniella, no? E sono andato, li ho messi questi 10-20 euro in tutto, da giugno fino a ieri che ti ho chiamato non avevo praticamente nemmeno benzina, si può dire, sono dovuto andare infatti anche a mettere benzina, perché non ne avevo proprio. Avevo, cosa ho fatto? Da quando ho fatto la revisione, allora si è fatto 50 km troppo, forse anche di meno, o robe. Comunque, passa quando vuoi, la giornata asciutta naturalmente si scalda la punta in modo che prenda la forma, perché mai probabilmente col vento si è piegata, si scalda bene in modo che bisogna fare bella aderente, si mette un mastice non bicomponente poliuretanico di lì, quello che utilizziamo noi normalmente in officina, e vedi che non esce più. Ok, no, se no si può anche sostituire, non è un problema. Se proprio non è possibile bloccarlo, si può anche, penso che si trovi in quella guarnizione lì. Sì, vabbè. E poi un'altra cosa, te l'avevo già preannunciato tanto tempo fa, una lucinatina ai fari, perché lo sai, no, quella fare di plastica ormai è un po' opacizzato, per cui non è che, anche se non è che devo fare dei viaggi la notte, però al limite accendo anche le luci, se proprio sono scarsi posso accendere le luci anche quelle delle antinebbia, quelle basse, che quelle illuminano benissimo, perché quelli sono di vetro, capito? Una lucinatina ai fari anche. Allora, mi sa, se te l'ho già detto, non me lo ricordo, noi non li lucidiamo i fari, noi li raschiamo a fondo, li riverniciamo col trasparente per il policarbonato e ti durano tanti anni. Lucidare vuol dire consumare, tu stai consumando quella patina superficiale di quel trasparente che dà in origine, ma quando è troppo rovinato ti dura un pochettino, è come che tu stai lucidando il trasparente della macchina, se consumi a un certo punto non c'è più il trasparente e lo togli. Quando sono cose appena superficiali un po' riesci a attenuarlo, però dopo un po' te lo fai di nuovo. Noi lo raschiamo completamente e si dà il trasparente sopra, e vedi che i fari ritornano fiammati. Mi ha fatto una oggi proprio, una panda, ma ne facciamo centinaia di queste cose e vanno più che bene, perché quelli che lucidano a quel punto te lo puoi fare tu, ti attacchi un po' di pasta abrasiva o un trapano, un tampone, te lo fai tu, e non spendi niente, perché quelli che fanno così ti chiedono 20 euro ma fa un lavoro di 10 minuti, lavoro che dico io non è che siamo più bravi, però fatto come deve essere fatto, si raschia a fondo staccati dalla macchina e poi si dà il trasparente, li lascia essiccare bene, un trasparente bicomponente, e ritornano come nuovi, perfetti. Sì, appunto, è così che le voglio fare io, lo so benissimo che prima va levigato con la 4000, poi con la 3000, poi con la 2.5, andando a rovescio, cioè andando da quella più grossa a quella più sottile, la carta abrasiva. Sì, già lo so, se per quello lo potrei fare anche io, se per quello, figurati, però non ho voglia di mettermi lì cosa faccio, mi metto in strada lì a verificare fare io, manco per mezzo, se no anch'io non li saprei fare lucidi proprio perfetti come stai dicendo tu. Non per vantarmi, ma ti posso garantire che li so fare, so benissimo qual è tutto il procedimento, che poi vanno appunto verniciate con un trasparente, certo che sì, ma è così infatti che le voglio fare, ma io in quel caso lì le farei con la macchina già attaccata, isolerei tutto quanto, ovviamente, tu magari metto gli fari, poi non so, i fari vorranno anche registrati di nuovo. Sì, no, non c'è problema. E come si chiama? Si fanno con i fari staccati, però soprattutto la parte di sotto, se no ti sfuggano, non riesci la parte inferiore, perché la copertura del faro, il policarbonato, arriva fino a sotto, non è di quelle certe macchine, prima c'avevano tipo la 500, il vetro, a parte che non è vetro, era soltanto esterno, non avevano bordi, mentre qua i fari di adesso hanno sempre un bordo sotto, un contorno, per cui se tu non lo fai staccato ti sfuggia tutto e c'è una cagata mondiale. Poi naturalmente lo so, tu l'hai fatto una vita, il lavoro del tuo mestiere, per cui verniciavi anche altri tipi di materiale, per cui c'è una manualità probabilmente pure meglio della mia, questo non sta a me giudicarlo, qui non posso dire niente, quello è il lavoro, parliamo a regola d'arte, e niente da dire. Cosa volevo dire? Altro non ce n'è, boh, avanti a te. Giulio, scusa un attimo, con questa radio invece, questa è l'altra radio, quella là è quella HF che non uso qua, questa è la mia, la modulazione. Sì, questa è perfetta, è la tua modulazione, è così, ha diminuito il segnale, 9,9, per l'esattezza il tuo segnale, 9 più 9, e così è perfetto, non c'è problema. Sì, ma quello è 9,9,9,10, anche tu sei 9,9,9, quando parli sei 9,10. Vabbè, no, quella là è un'altra radio che è abilitata alle HF, quindi c'è l'amplificatore inserito e ogni tanto lo faccio andare tutto lì, però io modulo sempre con questa, non è un problema. Va bene, dai, vi saluto che accompagno mia figlia su a casa e poi scendo e ceniamo, che sono già le 8:05, ho fame, ciao Ruby. Fai quello che devi fare, roba, senza nessun problema, capito? Non ti creare problemi. Dillo pure che sabato noi siamo impegnati, quindi io l'antenna gliela do, come siamo rimasti d'accordo, l'ho ordinata per lui, è già qua un mese, se la prende e fa quello che vuole. Io non ne ho tempo di, in questo momento, dare mano a nessuno. Sto terminando i lavori che ho a terminare, perché devo passare bene l'inverno. Ok, dai, ci sentiamo, riprendi tu Roberto, grazie Giulio dei controlli, buona cena a tutti, ciao. Sì, ciao Claudio, buon tutto. Se qualcuno vuole entrare, avanti che vuole entrare. Ho sentito un verso, chi era? Tu, vai giù. Ok, ciao di nuovo Claudio, ci sentiamo. Alle prossime, così va bene la radio. Sì, vabbè, allora, tu, vabbè, hai ragione, bisogna trovare una giornata, è stato buono, questo è dubbio. Una giornata che sia appunto... A Giulio, se sente sotto qualcuno. Per potermi dare un No, a te non ti lo dirò. Ui, se lo voglio. Lo senti questo qua? Essendo fuori, non è che posso lasciarti la macchina lì, però lavoro, penso che lo puoi fare in giornata stesso, cioè io ti lascio la macchina e in giornata stesso me la devo riprendere, se no me la devo riprendere dopo due giorni, nel senso che, come ti ho detto poc'anzi, mia figlia lavora un giorno sì e un giorno no in ufficio dove ci ho detto, e gli altri giorni invece può essere disponibile, o meglio può essere anche impegnata addirittura a 200 km da Sassari, però se si capita il giorno che invece risulta che rimane a Sassari, allora mi può dare il passaggio, perché l'altra macchina la uso prevalentemente, la uso lì quasi sempre, anche perché è più grossa e voglio che usi una macchina più pesante dal momento che si sposta continuamente, che fa parecchi chilometri durante la settimana. Vai Roberto. Allora, prendendo l'appuntamento, avvisandomi in anticipo, è una giornata che non piove, me la porti presto, entro le 9 la devi portare, la sera entro le 6 te la ritiri. Ok, va bene, va benissimo così. Allora lasciamo di trovare la giornata buona e poi che combini anche la possibilità appunto di questo passaggio che posso farmi, perché io col tram non ci voglio viaggiare assolutamente, visto e considerato che c'è ancora questo fatto del Covid in giro, se non sarei salito in tram e basta. Va bene, va bene. Ehi, aspetta, c'era qualcuno sotto come stai parlando? Tu avanti che vuole entrare? Già due volte. Senti, va, tipo fischietto o qualche cosa del genere. Ok, di nuovo vediamo se vuole entrare l'amico, se no riprendi tu giù. Ok, vabbè. C'era qualcuno che sta addestrando il cagnolino e allora lo chiama per nome col fischio, come solitamente la gente fa per i cani, e così fa lui. Mi è arrivato il messaggio dei risultati, il Cagliari stava vincendo 2-0 in Coppa Italia, quanto è finita? Non lo so, perché non l'ho seguita per niente, anzi devo dire che siccome sono un pochino disgustato per quanto riguarda la Juve, mi sono anche disinteressando in questo periodo anche dal calcio, non mi interessa più di tanto, perché mi sta solo facendo arrabbiare, perché la Juve non può essere ottava in classifica con 8 punti dalla quarta, assolutamente. Mi fanno solo arrabbiare. Premesso che non sono fanatico della Juve, io sono simpatizzante, però me la fastidio, insomma, ecco. E purtroppo ci sono state delle scelte sbagliate, personaggi che non erano secondo me molto esperti e li hanno messi di lì in mezzo. Adesso ci hanno messo quest'altro, arriva bene, quello che ha arruinato la Ferrari, che vendeva sigarette, era il direttore responsabile della Philip Morris. Cosa c'ha a vedere col calcio? Io dico, nel calcio metti dei personaggi, delle persone che hanno vissuto il calcio, anche se Marotta poteva essere un antipatico eccetera eccetera, però ha lavorato bene, se è andato all'Inter, ha lavorato bene eccetera eccetera. Non puoi improvvisare a quel livello, devi avere il meglio del meglio, oltre che i giocatori deve avere una dirigenza all'altezza. E quando c'era Mucci, che fu più grande e peggiore delinquente che poteva essere, almeno così si dice per sentito dire, però almeno un po' di convinzione e di cognizione di causa ce l'aveva. Adesso tacco, basta che sei un presidente di qualche cosa, ti mettono come direttore generale. Sì, Mucci come direttore generale è il numero uno in assoluto, non solamente in Italia, forse anche in Europa. Poi tutto quello che si è detto lasciamo perdere, perché ci sono delle cose contrastanti che non gli hanno dato nemmeno la possibilità di difesa alla Juve. Avete considerato che gli altri gli hanno fatto più della Juve di queste telefonate e pranzi insieme agli arbitri, a differenza di Mucci che ne ha fatto qualcuno solamente di avvicinamento, ma gli altri, qualcuno che è anche deceduto tra l'altro, quello che ha fatto la Bizzeffe, era sempre con gli arbitri, era tutte le settimane, tutti senza nessun problema. Ma comunque è un altro discorso, lasciamogli fare, peggio per loro. No, io oggi come oggi riconosco che la Juve non ha. Come giocatori sono 20-24 pulli che ha, sia il titolare che il riserve, che poi di titolare secondo me non c'è nemmeno uno, compreso Dybala, che lui ha tante pretese di chiedere 15 milioni l'anno, quando io non sono il grande di 15 milioni, ma non avrei anche abbassati, perché ne prende già 7 e mezzo, non avrei anche abbassati, anzi addirittura l'avrei venduto, perché per conto mio Dybala non è un giocatore da Juve, nella maniera più assoluta. Loro l'unico errore che hanno fatto è che hanno lasciato andare via Ronaldo, perché avrebbero dovuto fare una squadra a misura di Ronaldo e avrebbero continuato a vincere. Non a caso anche l'anno scorso Ronaldo in qualche maniera ha contribuito a farli arrivare in Champions, perché Ronaldo, tanto per dire, no, nelle prime 13 partite di questo campionato, va bene, adesso siamo, mi sembra, già alla 16esima eccetera, aveva già segnato 12 gol Ronaldo, aveva segnato, e con questo che aveva fatto solamente 10 partite, erano 13 di campionato, ne ha giocato 10, aveva fatto già 12 gol, in tutto il campionato ha fatto 29 gol, ha fatto, e gli ha reso alla Juventus 32 punti, 34 punti, una cosa del genere, per cui per dirti no, oggi è mancato Ronaldo e la Juve non ha più segnato, mi sembra che ha fatto 18 gol, quanto ne ha fatto? 20, una cosa del genere, la metà di quello che faceva Ronaldo praticamente in un intero campionato, Roberto. Sì, lo so. Il discorso, ci sono troppi fattori di lì che non, secondo secondo me non è la Juve. La Juve ci ha prestata il topo del topo, non parliamo solo per i risultati, per l'organizzazione societaria, per tutte le cose. Loro hanno cercato un sacco di cose da fare, secondo me delle scelte sbagliate, giocatori anche se li hai presi a parametro zero, però ti costano una barca di soldi, che non sono da Juve. Hanno venduto dei giocatori che secondo me dovevano tenerseli, senza far nome, da iniziare da quello Mandzukic, non ho mai capito perché ce l'hanno mandato via. Pogba, gli hanno dato un sacco di soldi, però se tu vuoi vincere devi tenere dei giocatori, quelli validi, eccetera eccetera. Però purtroppo hanno avuto delle scelte sbagliate. Questi giocatori sudamericani sono troppo poco continui, compreso Dybala. A me piace Dybala, però non ho mai visto continuità di giocatore, sempre fortunato, fa 10 partite sì e 10 no. Di quelle 10 partite 5 le fa belle e 5 per discrete, per dire, sembra un fenomeno. Non ha continuità di giocatore. A me i sudamericani, tolti casi rari, ma proprio rarissimi, i giocatori non ne comprerei mai. Innanzitutto sono disordinati tatticamente, sono squilibrati a livello disciplinare, eccetera eccetera. Anche se devo dire Dybala da quel punto di vista è abbastanza tranquillo, però ne tu di Kakà del Milan, l'unico giocatore è qualche giocatore tipo Roberto Carlos, qualche di un altro, pochissimi giocatori, che Zanetti, nel senso esempi di tutti, in tutti i sensi, anche fuori dal campo. Preferirei comprare giocatori dell'Est, ci sono tutti quelli, giocatori dell'Est ce ne sono tanti, giocatori nordici ce ne sono tanti, non c'è bisogno di andare a comprare questi giocatori che la maggior parte che ci ha preso poi se li ha tutti rivenduti, da Vidal, De Cazares e tutta la compagnia cantante, la Juve, perché erano indisciplinati fuori dal campo. Sì, beh, la Juve non solo che non ha squadra, ma non ha società, soprattutto non ha società, perché anche il presidente, per conto mio, è un incapace, no? Finché c'è la Marotta, era lui che gestiva il tutto e allora andava bene, no? Non c'era problema, ma adesso avete considerato che ha licenziato la Marotta, cioè lui ce l'ha il vizio, lui è esistente, il padre padrone, capite? Allora fa quello che vuole, così l'ha fatto con Del Piero, così l'ha fatto con Conte, così l'ha fatto con Marotta e con tanti altri, e così è una persona un pochino stravagante nel modo di comportarsi, secondo me, nonostante i suoi studi, eccetera eccetera. Secondo me lui non è assolutamente capace di gestire una società come la Juve, visto e considerato che ha portato la Juve a questa situazione, anche in fatto economico, per cui non va bene. Vabbè, comunque lasciamo perdere, è un discorso che possiamo fare molto lungo, però lo facciamo un altro momento, anche perché mi ha telefonato mia moglie per scendere giù per la cena. Ascolto il finale da tuo o Robe e poi chiudo. Dai, intanto ritieni, si è salutato, che io devo scendere per forza per cenare. Vai Robe. Ok, grazie Giulio, questo è la prima, adesso faccio un girettino, se entra qualcuno, poi vado a mangiare, poi magari ci provo più tardi. Ok, buon tutto, buona cena e risentirci quanto prima. Ciao ciao. Ok, ciao ciao Robe, alla prossima, ciao. Vediamo se nel frattempo qua sul 10 è entrato qualcuno, se no si va da altre parti. Avanti sul 10? Ok, nulla. Niente, non c'è nessuno, come sempre. Tacce. Nola 10? Chi è? Buonasera, che? Luca? Chi è? Positivo, brate, che è me? Come la va? Come la va? È arrivato adesso a casa. Come? Ho detto, è arrivato adesso a casa. Ah, ho capito. Tutto bene, quindi qui stiamo combattendo invece con un citofono che non funziona, non si sente la voce, qui stava a cambiare la parte di giù, si è bruciato il microfono del condominio. Ah, ecco, boh, sicuramente sarà partito quello, il microfono. Come è successo lì a coso, a come si chiama, le montalepre, dai, fatto un alto, le cacciano le montalepre. Praticamente uno suonava, non sentivano la persona, capita a casa, laggiù. Allora, sono andato e ho cambiato la capsa, ho messo la capsa di telefono e ha ripreso a funzionare. E quindi sarà qua, perché il campanello, diciamo, suona, dentro casa suona, però c'è la cornetta e non si sente niente, quindi sicuramente Mi sa che non si sente niente neanche giù, quindi non so se abbia due capsule, una per ricevere e una per trasmettere. Beh, per forza, ma solo il tuo non fa. Come? Ho detto, solo il tuo non fa, o gli altri anche. No, è un problema generale. Ah, la sua problema generale allora è una tacuma. Lo fa, deve essere qualcosa di giusto. Dalla centralina di giù, ormai vorrà nuova, ormai è vecchietta, dai, ormai sarà da cambiare. Non so se mettere il videocitofono, magari ci vorrà un pacco di soldi. Sicuramente, vabbè, prova magari una cazzata. Prova una cazzata, non c'è nessuno, vabbè, io chiudo la TV, ho staccato perché c'è la figlia, è arrivata la figlia della mia compagna che poi venerdì di parte. Come si dice, e l'ho dovuto staccare nella cameretta, solo da qua posso modulare, basta. Non so, io sono entrato a letto, ho acceso, ho fatto una chiamata, una battuta e hai risposto tu. Ehi, poi non so se sono entrati, boh, so niente. Non so, c'è qualcuno su 10? Buonasera Carlo da questa parte. Ciao Carlo, come va? Ciao Fra, non c'è male, chi c'è? Luca? Sei avanti Luca? Sì, se mi ascolti sì, se no no. Sì che ti ascolto, è anche forte e chiaro. Ah, allora già sta funzionando, là. Già sta funzionando l'antenna di plastica che ho. Non è di plastica, no, è placcata in oro quella. Dici, no? Sette fa, l'antenna placcata in oro, e ciao bravi patandina. Ehi, vedete te l'avevo lasciata pure? Infatti passano gli zingari e me la portano via. Oh, via. Stai arrivando bene qua, Carlo? Sono a casa, non sono in macchina. E niente, stasera sono entrato, sì, c'era qualcuno, ma poi sono dovuto uscire, quindi non so se gli altri hanno continuato. E ho riacceso adesso, io ho sentito solo le vostre due voci, capito? Sì, capa. Ma io ho acceso quando stavo rientrando dal lavoro, oggi stasera verso le 5:30, ero mezza qui al traffico, lì la via di Alghero, dai, come si chiama? La via che sarà presa niente. Però non c'era nessuno. Stasera c'era Gianfranco, c'era Claudio da Muros, poi è entrato Roberto, c'era Natalino, c'ero io, sono rimasto un'oretta, poi sono dovuto uscire perché dovevo ritirare mia figlia e poi tra cenare tutto ho riattaccato adesso, ho finito adesso di cenare. E mai sono entrati dopo le 6, magari, dai. Sicuramente dopo che io sono rientrato dal Medo. Sì, io sono uscito che erano le 7:30 e quindi li ho lasciati sul canale loro, però diciamo che dalle 6 c'era già qualcuno. Bene. Avanti Luca. Di qualche minuto di fianco per me, la riprendo subito, vado a fare una cosettina qua in camera. Capo positivo. Sì, no, tornando a poc'anzi, immaginavo che fossi a casa, eh. Sì. Ti sento anche a te molto bene Fra, qua, segnale a fondo scala, radio 5, tutto perfetto. Aspetta, prova a abbassare adesso, eh. Allora, adesso è sceso di molto? E Santiago 8 e 8 più 5. 8, 9 più 5. Ah, prima eri al massimo, adesso sì, 8 e 9 diciamo di picco, sì, perché io ho i LED, capito, quindi non ho l'ago e quindi non posso essere più preciso. 8 e 5 e 9. Aspetta, allora, il segnale arriva da 1, 2, 3, 4, 5 fino a 9. Poi c'è 9 più 5, più 10, fino a 9, fino a 9,60 per esempio. Adesso io dove arrivo io adesso? 9 più? Allora, 9 più 4 tacchette. E il massimo è 6? No, il massimo a me mi dà 10 più altre 4 tacchette. Come LED, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 più 4 tacchette. Vabbè, non fa strano, eh. Sto smitter. Vieni, arriva fino a 9, poi da 9 arriva fino a più 10, fino a 60, dai. Guarda, la mia è un po' strana, sì, la radio è un Albrecht, è praticamente ho il display e non è con i LED, e c'ho le 10 caselline, no, inizia dalla prima e c'ho le 4 tacche, la seconda 4 tacche, terza 4, e così sino a 10 più 4 tacche finali. Non è che il 10 è già il più 10 invece, del 9 più 10? No, no, sono tutti uguali, capito? Quindi non c'è differenza tra 8, 9, 10, capito? Non c'è il più. Nella radio che ho giù invece in macchina sì, c'è il 9 più e poi ci sono le tacche, invece questa no. No, non la conosco, tutta particolare. Invece in macchina cosa usi? In macchina ho preso